sei bella, perché sei viva, perché hai due fondi occhi blu. Grazie di esistere, grazie di vivere, grazie di avere due profondi occhi blu e due mani da carezzare. Grazie di non essere rimasta col sole e con le stelle. Grazie perché sei scesa dal cielo e sei viva, sei viva. Grazie di esistere, per me. Col sole, con le stelle. Grazie perché sei scesa dal cielo e sei viva, sei viva. Grazie di esistere, di